Sono al telefono con il professor Fabio Roversi Monaco, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Finalmente siamo tornati in zona gialla, quindi sono riaperti le porte dei musei di Genus Bononie. Cosa è possibile visitare già da oggi? Anzitutto voglio fare una notazione che collegare l'apertura dei musei alla zona è una cosa priva completamente di senso, perché i musei si erano autogovernati e creato le condizioni per non creare preoccupazioni di sorta, ma pazienza. Certamente per noi è una grossa delusione il fatto che la principale mostra che abbiamo, che è quella del politico Grifoni, che è una grande mostra, forse la principale che quest'anno viene fatta, ha solo una decina di giorni di tempo in più rispetto a quello che si sperava, nel senso che nonostante ripetute adesioni alle richieste di proseguire con il trattenimento dei quadri, siamo riusciti soltanto ad avere questa possibilità in momenti in cui rari lo consentiva la normativa su Covid. La cosa principale quindi è il politico Grifoni, anzi è quella, se mi permette, essenziale, perché il 15 chiude, non ci sarà mai più una possibilità come questa di recuperare un'opera unica suddivisa in 16 pezzi e contenuti in 9 grandi musei internazionali. Cose di questo genere non erano fino adesso mai avvenute ed è difficilissimo che possano confermarsi, perché i quadri viaggiano ma non viaggiano in continuazione. Quindi principalmente questa cosa, poi a Santa Maria della Vita c'è una mostra sulle criminalità decisa dalla Corte d'Appello, dal Tribunale di Bologna, nel corso degli anni dal 1950 in poi. Criminis Imago è il titolo. Poi ancora c'è da visitare San Colombano, che è sempre molto attiva dal punto di vista della musica in particolare della musica suonata su strumenti antichi. C'è il San Giorgio in Poggiale, dove c'è una piccola mostra, ma dove si rinnova continuamente e attraverso gli strumenti che già abbiamo, sono mostre di cose nostre queste, molto efficaci però. E da ultimo c'è Palazzo Pepoli, che deve riprendere in pieno le sue funzioni, perché forse è stato quello più colpito da questo troppo lungo periodo di impossibilità di visitare mostre. Ripeto e concludo, è stata una cosa priva di senso completamente. Nessuno riuscirà a spiegare, nessuno ci proverà, perché non potrebbe trovare le parole. Quindi l'abbiamo dovuta semplicemente subire. Mi auguro che in questi ultimi 10 giorni ci sia una buona presenza di bolognesi. Grazie mille, volevo solo specificare un'ultima cosa, che ci saranno anche degli orari prolungati. Sì, noi abbiamo prolungato gli orari sia aprendo un po' prima la mattina alle 8, sia andando oltre le 20 nel pomeriggio. Questo prolungamento dovrebbe consentire una maggiore presenza, ovviamente, però vede, questo così lungo periodo senza iniziative di questo tipo ha creato da un canto un'attesa molto forte, dall'altro però un distacco, quindi la gente ci mette un po' di tempo a riprendere, quelli che vogliono andare nei musei, a riprendere il giro dei musei per vedere nuove mostre. Quindi è stata una vicenda che ci ha fortemente penalizzato e comunque abbiamo cercato di far fronte nel modo migliore possibile.